Sì, è una vicenda che, come giustamente detto, è veramente dell'assurdo. Noi siamo stati costretti a pagare questa che abbiamo definito ingiusta gabella perché nel 2006 abbiamo semplicemente fatto un cambio di frequenza con un network commerciale che peraltro provocava diversi disturbi alla nostra frequenza storica, quella dei 106-500. Avevamo praticamente scambiato senza alcun tipo di introito finanziario da parte nostra, senza che ci fosse stata una transazione finanziaria, insomma, la nostra frequenza con una che è quella che attualmente occupiamo. Avevamo chiesto ovviamente come fare ai tecnici e ai funzionari del Ministero delle Comunicazioni che ci avevano detto insomma di procedere in quel modo. Noi abbiamo seguito diciamo queste istruzioni. Alcuni anni dopo praticamente ci è stato detto che noi avevamo guadagnato da questo scambio perché la nostra frequenza non valeva nulla e ne avevamo ottenuta una che aveva un valore di 400.000 euro. Qual è il mistero? Il mistero è che noi siamo un'associazione culturale senza finalità di lucro, quindi non siamo obbligati a tenere a bilancio quelli che noi consideriamo dei valori d'uso, cioè per noi le frequenze sono valori d'uso, ciò che ci permette di diffondere il segnale della radio. Non siamo mai stati come le radio che hanno fatto incetta di frequenze, si sono accaparrati frequenze per poi venderle e guadagnarci. Quindi insomma noi non abbiamo messo a valore la frequenza. L'altra radio commerciale invece aveva messo a bilancio quella frequenza 99,6 che poi ci ha ceduto, l'aveva stimata 400.000 euro. Questo praticamente ha fatto sì che noi venissimo ritenuti insomma responsabili di non aver pagato un'imposta perché in questa operazione, secondo la loro concezione distorta insomma anche di ciò che siamo, di quello che per noi rappresentano le frequenze, noi avevamo guadagnato perché avevamo ceduto una frequenza senza valore e ne avevamo invece ricevuta una con quel tipo di valore. Questo è una cosa assurda, noi abbiamo fatto ricorso ovviamente, abbiamo vinto in due gradi di giudizio alla Commissione Tributaria di Brescia perché era stata riconosciuta insomma che effettivamente non c'era stata transazione finanziaria, non avevamo incamerato 400.000 euro, avevamo semplicemente fatto uno scambio di frequenze. Cosa è successo però? Che al posto di a questo punto da parte dell'Agenzia delle Entrate accettare questi gradi di giudizio sono andati in Cassazione, cioè ci hanno portato in Cassazione. I nostri consulenti, sia avvocati che commercialisti che abbiamo interpellato, ci hanno detto che però in Cassazione non sarebbe praticamente stata considerata la nostra anomalia e avrebbero semplicemente verificato che noi avevamo ceduto una frequenza senza valore e ne avevamo incamerata una con quel valore e quindi ci hanno detto che sarebbe stata una roulette russa andare in Cassazione, però dove il caricatore è pieno e c'è forse una possibilità di salvarsi su tutto il caricatore invece pieno di cartucce che avrebbero praticamente colpito in maniera letale la radio perché il rischio era che se fosse andato in Cassazione la sanzione sarebbe lievitata a 450.000 euro tra interessi, sanzioni, spese legali eccetera eccetera e quindi abbiamo dovuto ed è stata una scelta veramente molto molto molto sofferta sottostare al ricatto di pagare quindi l'ammenda, la sanzione di 180.000 euro in tre rate che però dobbiamo pagare entro l'anno, due le abbiamo pagate mettendo praticamente mano a tutti quel tesoretto di riserva che avevamo messo da parte in una decina d'anni e che ci serviva a garantirci da possibili problemi di carattere economico che potrebbero ad esempio derivare non so, da un'estate particolarmente piovosa che ci penalizza la festa della radio che all'oggi rappresenta l'80% circa del nostro autofinanziamento. Insomma, siccome le condizioni meteo non sono governabili da noi, avevamo messo da parte questi soldi perché nel caso ci fosse stata magari un'estate con 4-5 serate rovinate dalla pioggia, dal maltempo, avremmo avuto comunque da parte quei soldi. Il problema è che le prime due rate appunto sono state pagate per 140.000 euro. Adesso abbiamo una rata nel prossimo a inizio estate di 40.000. Se non riusciamo a raccogliere diciamo questi soldi, praticamente dovremo usare quelli che avevamo invece guadagnato con la festa e che ci devono servire diciamo per coprire l'anno radiofonico fino alla prossima festa di agosto. Ci potremmo trovare in una difficoltà economica veramente molto molto preoccupante preoccupante e grave più o meno in primavera. Quindi abbiamo lanciato questa campagna straordinaria di sottoscrizione, una campagna abbonamenti che ovviamente facciamo tutti gli anni in occasione del compleanno della radio che cade il 18 di dicembre, quest'anno faremo i 32 anni, ma che quest'anno abbiamo voluto caricare anche maggiormente parlando appunto di campagna abbonamenti straordinaria, perché abbiamo effettivamente bisogno di maggiori contributi da parte di tutte le persone che vogliono, insomma, che in questo panorama desolante anche dell'informazione locale e regionale ci sia una voce come quella di Radio Onda d'Urto. Noi consideriamo veramente vergognoso il fatto che da parte dell'Agenzia delle Entrate, che opera in una provincia come il Bresciano dove ci sono frodi, truffe fiscali, evasione alle stelle, stimato secondo la loro stessa stima ufficiale in oltre 1 miliardo di lire, ci sia stato l'accanimento contro una emittente, un'associazione culturale, cioè perché noi siamo un'associazione culturale, quindi c'è stato un accanimento contro un'associazione culturale che aveva vinto 2 gradi di giudizio presso la commissione tributaria e che è notorio che non fa pubblicità, non ha finalità commerciali, appartiene alla cosiddetta schiera delle emittenti comunitarie che ovviamente non hanno nessun tipo di particolare regime di favore. Noi siamo in attesa che ci arrivino i rimborsi per le bollette telefoniche, l'abbonamento all'ANSA, le bollette dell'energia elettrica per circa 35-40 mila euro da parte dello Stato, le attendiamo da ormai dal 2010 che non vengono più effettuati questi rimborsi e quindi riteniamo questo accanimento una sorta di rapina politica che abbiamo subito. Siccome ci sono anche molti ascoltatori bolognesi che simpatizzano e seguono Radio Onda d'Urto, come si può fare per partecipare alla campagna? Basta consultare il nostro sito oppure le pagine Facebook, lì ci sono tutte le indicazioni per poter effettuare una sottoscrizione attraverso PayPal oppure con un bonifico sul conto corrente della radio presso la banca etica o ancora facendo l'abbonamento che consiste modulo SEPA e l'ex RID con cui praticamente si decide una somma, noi chiediamo almeno 7 euro al mese che viene poi direttamente dalla banca di chi vuole fare questa sottoscrizione girata sul conto corrente della nostra banca etica, cioè del conto corrente di Radio Onda d'Urto, ed è una forma diciamo di sottoscrizione che non ha più bisogno poi di nulla, che può chiaramente però essere sospesa con una semplice telefonata alla propria banca quando si vuole.